Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. We have only recently taken down walls in Europe. We should not be putting them up. In Europa sono stati recentemente abbattuti dei muri, non abbiamo bisogno di costruirne di nuovi. Le parole che avete sentito, quelle di Natasha Bertrand, portavoce del commissario europeo per l'immigrazione Avramopoulos, commentando l'annuncio di Budapest della costruzione di un muro anti-immigrati tra Ungheria e Serbia. Con l'Europa divisa sul fronte immigrazione e l'Ungheria pronta ad erigere un muro, oggi arrivano i numeri a definire la situazione in Europa. Il numero di rifugiati richiedenti asilo o sfollati aveva raggiunto i 6,7 milioni alla fine del 2014 rispetto ai 4,4 milioni della fine del 2013, in aumento del 51%. Sono i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite nel suo rapporto annuale. La maggior parte di loro sono siriani fuggiti in Turchia e ucraini, spiega l'agenzia dell'ONU. All'interno dell'Unione Europea la maggioranza delle richieste d'asilo sono state depositate in Germania e in Svezia. Ma sono impressionanti anche le cifre che l'Europa ha speso per i respingimenti. I paesi europei hanno speso negli ultimi 15 anni qualcosa come 11 miliardi di euro per espellere i migranti illegali. Oltre 11 miliardi di euro. Tanto ha speso l'Unione Europea per espellere i migranti negli ultimi 15 anni, secondo uno studio del Migrants File, un consorzio di esperti e cronisti che hanno incrociato dati ufficiali dell'Unione e quelli dei singoli paesi. Ogni espulsione, scrivono, costa in media 4.000 euro e metà del costo è per coprire il trasporto. I muri intorno ai territori di Ceuta e Melilla, in Nord Africa, costano circa 10 milioni di euro in manutenzione. L'Agenzia delle Frontiere Europee Frontex ha usato circa 1 miliardo di euro e i paesi del Mediterraneo almeno 70 milioni per acquisire all'anno imbarcazioni, visori notturni, droni e altri mezzi per cercare di controllare le frontiere. Ci sono poi i costi di struttura degli organismi europei che si occupano di migrazione. Il budget del Dipartimento ECO della Commissione per l'assistenza umanitaria e la protezione civile ammonta a oltre 1,3 miliardi di euro l'anno. La metà di queste risorse va in stipendi, affitti, sedi all'estero, spese di rappresentanza e relazioni esterne. Il personale delle agenzie europee decentrate, che 15 anni fa erano 12 e oggi sono 32, è passato da 1.400 unità nel 2000 a 6.000 unità nel 2013. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa al bivio anche sul fronte Grecia. Tra poco si riunirà l'Eurogruppo e sono intensi in queste ore i contatti tra Bruxelles e Atene, con l'orologio che non si ferma. We do not envisage to stop the clock, but we know that the clock is ticking. Non prendiamo in considerazione l'opzione di fermare l'orologio, anzi sappiamo che continua a ticchettare. Così il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, a chi gli chiedeva se poteva essere presa in conto appunto l'opzione diplomatica di fermare il conto alla rovescia per dare più tempo ai negoziati sulla Grecia. E anche Berlino è in pressing perché Atene resti nell'eurozona e si eviti il default. La cancelliera Merkel ha parlato questa mattina al Bundestag. In Deutschland sind darauf gerichtet. La Grecia era sulla buona strada, ma non ha concluso il percorso delle riforme, osserva la Merkel, ma un accordo con le istituzioni è ancora possibile ed è il presupposto decisivo. Guai intanto per la Germania, arrivano da Bruxelles. La Commissione europea ha deciso oggi di aprire una procedura di infrazione contro Berlino per la legge che obbligherà solo gli automobilisti stranieri a pagare un pedaggio per l'utilizzo della rete stradale tedesca. Secondo Bruxelles, la norma viola l'articolo 18 del trattato europeo che vieta discriminazioni tra cittadini dell'Unione. Per il momento ci fermiamo qui, molti gli aggiornamenti attesi con Europa 24. L'appuntamento è con Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.